Io veramente in questo momento provo un'immensa gratitudine per tutti i grandi esseri che ci consentono oggi di fare questo lavoro qua. Tra questi anche Milton Erickson. E quest'uomo è stato un vero medico perché è stato colui che ha cominciato a curare le sue ferite, ha imparato dalle sue ferite, passo a passo, ad uscire. Guarda, è commovente la vita di Erickson. Era una famiglia di contadini, lui era paralizzato dalla poliomielite, era seduto su una seggiola a dondolo. E i suoi erano dei contadini, andavano nei campi, se no non mangiavano. E lo lasciavano lì in casa, era vicino a una finestra, ma non troppo vicino. E lui voleva vedere laggiù sul fiume, ma non riusciva a vedere. E ci teneva tanto, povero ragazzino, ci teneva così tanto. Però non poteva muovere niente. A un certo punto scoprì che se pensava in un certo modo alla sua gamba, al suo bacino, a un certo movimento, qualcosina cadeva. Se si produceva dentro la sua testa un'immagine del movimento, in minima parte questo movimento si produceva. Da questa piccola scoperta, siccome era un ragazzo, una fede molto grande, era radicato nella terra, riuscì a muoversi al punto che poi una volta riuscì, cadde dalla seggiola, lo trovarono per terra. E dopo 1 o 2 anni di questi esercizi, lui riusciva a camminare con le stampelle. E si era messo d'accordo con un suo amico per poter rinforzarsi, perché sennò era di fare quell'estate. Andare sul fiume e fare 2000 km in canoa. Ma nel momento di partire, suo amico gli disse che non poteva più. E andò da solo, con le stampelle e la canoa. Mise la canoa in acqua, facendosi aiutare da un pescatore, e cominciò a vogare. Ma poi per arrivare a riva aveva bisogno di aiuto. E trovava sempre qualcuno che era disposto ad aiutarlo, ma lui non voleva l'aiuto gratis. Lui faceva qualcosa per l'altro, diceva: ti faccio qualcosa per te, ti cucino la cena, ti faccio questo. E qualcuno gli dava anche dei soldi per questo, allora poi lui si poteva comprare qualcosa. Lui è partito senza soldi e stette via 2 mesi da casa, fece questi 2000 km e tornò a casa robustito e sapeva muoversi molto meglio. Ora, quest'uomo che ha sofferto tantissimo ha messo al servizio dell'umanità la sua sofferenza. Perché ha visto la sofferenza come una sfida per evolvere e non come una disgrazia contro cui imprecare. Se vogliamo prendere in un solo termine qual è l'insegnamento di Erickson, è questo. Di fronte a una difficoltà, di fronte a un problema, guardalo come una sfida da affrontare, superare e non come qualcosa di cui lamentarti. Perché se ti è capitata a te, non c'è niente di ingiusto in questo, ad altri sono capitate altre cose. In ogni caso è andata così. Erickson non si è mai lamentato dei suoi dolori che erano molto intensi, poi ha imparato a farseli passare. Questi insegnamenti vengono da antiche tradizioni, Milton Erickson la riscoprì da solo come ragazzino e scoprì molte altre cose di ipnosi. Queste cose sono al servizio di tutti, non sono copyright, sono a disposizione. La PNL, la prima PNL, quel cuore, l'essenza della PNL viene da Milton Erickson, da Gregory Bateson, che erano grandi uomini. Bandler e Grinder erano intelligenti. La PNL è intelligente, sveglia. Una parte della PNL ha perso l'anima, è proprio un peccato. Ma l'anima non si perde in realtà del tutto, si può recuperarla. L'essenza della PNL è il modellamento. L'essenza della PNL umanistica è il modellamento dei grandi maestri. In fondo, che cosa ci interessa a noi? L'uomo risvegliato, l'uomo di successo, che del successo esteriore, se è un uomo dimezzato, non è molto interessante, perché passa da uno stato di esaltazione, uno stato di paura, a uno stato di altro. almeno nella PNL umanistica, non siamo molto interessati a quello, siamo interessati all'uomo realizzato. Abbiamo conosciuto quasi poco, lo scorso gennaio, una grande mistica cristiana che ha avuto contatto con la Maria. È stato un contatto che ha avuto quando aveva 7 anni, è stata sollevata, e si è trovata in braccio questa meravigliosa donna. E come si è presentata Maria? Io sono l'umanità realizzata. Cioè, questo. E Maria non ha detto, guarda che per diventare realizzati devi andare all'università e superare quell'esame, o devi fare, devi imparare bene tutta la teologia dogmatica, se no non puoi diventare realizzato. Non gli ha mica detto questo. Gli ha detto che l'immagine di Dio che l'uomo si è fatto non è corretta, perché Dio è veramente soltanto amore. E l'uomo ha creato un'immagine di Dio a sua immagine e somiglianza. Allora quello non va bene. Una volta eravamo a un gruppo di persone, lei ci parla di queste sue esperienze così profonde e di come lei da allora è una persona sempre nella gioia, cioè il risultato è poi quello, capisci? Uno dice, è vero, non è vero, ok, guarda la vita che ha fatto, come sta? Sta sempre nella gioia, è sempre aperta a tutti, disponibile sempre, è la gioia del vivente, la compassione, la gioia, l'empatia, la generosità, tutte le qualità dell'essere. Una donna assolutamente semplice, comune, ordinaria, normale. C'è niente di... non ha particolari poteri, non è che fa così e accende un candelabro laggiù. Una donna che deve farsi da mangiare o che mangia, insomma, come tutti. Solo che c'è un piccolo dettaglio, che non ha paura. Mai.